Ho letto la testimonianza di un giovane credente zelante nel testimoniare della propria fede. Aveva un amico e, conoscendo la sua passione per lo sport e per il tennis in particolare, gli regalò una videocassetta contenente la testimonianza di alcuni campioni dello sport che raccontavano quanto Cristo Gesù aveva fatto per loro. La sua narrazione continuava nel modo seguente: il nemico, però, ha voluto metterci qualcosa di suo, e così la videocassetta è finita, dimenticata, in qualche angola della casa. E solo dopo alcuni mesi venne fuori, fu vista, e venne per lui il momento di prendere una decisione per Cristo. Le testimonianze di chi diventa un figlio di Dio mediante un atto di fede in Cristo sono tutte straordinarie e uniche. Ma in questo racconto risalta un particolare che riposa nella mente della maggioranza dei credenti, e cioè, se un'anima è impedita momentaneamente a conoscere, l'Evangelo è perché il nemico, cioè il diavolo, ci aveva messo lo zampino. Dobbiamo riconoscere che il conflitto tra Dio e il diavolo nella mente dell'uomo è una costante, tanto è vero che non esiste racconto, romanzo, favola nelle quali non ci sia il contrasto tra il bene e il male. È evidente che questo conflitto tra Dio e il diavolo, il bene e il male, è maggiormente sentito nell'ambito religioso, ma soprattutto in coloro che credono nel Dio trino rivelatosi nelle Scritture. E poiché, secondo la parola di Cristo, Dio è amore, poiché l'amore non fa male al prossimo, e poiché sta scritto che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, va da sé che il credente ravvisa la volontà di Dio in tutto ciò che è favorevole e piacevole, mentre ciò che secondo il credente è contrario ai piani di Dio e alla sua volontà è attribuito al diavolo. Da un certo punto di vista, questo modo di valutare le circostanze della vita non è nuovo, questo atteggiamento infatti era comune prima della venuta di Cristo. E lo dimostra il conflitto nel quale i credenti si trovavano quando tutto per loro andava storto e i malvagi prosperavano. Ne dà una splendida prova Asaf, l'autore del Salmo 73, dove egli testimonia che avrebbe perso la fede se non avesse considerato le cose dal punto di vista di Dio. E poiché non pochi credenti hanno perso la fede per aver avuto dei preconcetti sbagliati in merito all'opera di Satana, è più che opportuno valutare se tutto ciò che noi riteniamo contrario o negativo, meno e a volte anche quando lo è obiettivamente meno, sia veramente da ritenere l'opera del diavolo. Quando si medita sull'opera del diavolo, occorre mettere subito in evidenza la sovranità di Dio. E cioè che questo mondo, con tutti gli avvenimenti che succedono, sono nel più totale sotto controllo dell'onnipotenza di Dio. Avere un concetto più ristretto della sovranità del Dio trino rivelato nelle Scritture significa essersi costruita una fede proporzionata ai limiti dell'uomo. Il profeta Geremia si è definito l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Geremia 3.1. E cioè, ha visto la distruzione della città di Gerusalemme e uno sterminio senza pietà della popolazione di questa. Eppure, e nonostante ciò, la sua fede nel Dio sovrano non è venuta meno. Quando uno schiaccia sotto i suoi piedi tutti i prigionieri della terra, quando uno perverte il diritto di un uomo alla presenza dell'Altissimo, quando si fa torto ad un uomo nella sua causa e il Signore non lo vede, chi mai dice qualcosa che poi si avvera se il Signore non l'ha comandato? Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Lamentazioni 3.3438. Dunque non vi è nessun avvenimento che succede nella vita di un essere umano, sia positivo sia negativo, che non abbia come responsabile il Dio che si è rivelato nelle Scritture. Gli scrittori biblici, pur riconoscendo che in questo mondo vi è il diavolo che opera, pur sapendo che il principe di questo mondo è Satana, l'avversario, in definitiva attribuiscono ogni avvenimento solo alla volontà di Dio. Anche Salomone, l'uomo più sapiente della terra, non si discosta da questa prospettiva. Se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violazione del diritto e della giustizia, non te ne meravigliare. Poiché sopra un uomo in alto veglia uno che sta più in alto, e sopra di loro sta un altissimo. Ecclesiaste 5, 8. La Scrittura ordina ai credenti di non meravigliarsi se nella vita vedono l'ingiustizia e l'oppressione, quasi che questi siano il frutto di avvenimenti fortuiti, e ordina di Ricordarci che sopra ad ogni autorità vi sono autorità superiori, e che sopra le autorità ancora più superiori vi ne è una che è al di sopra di tutte, e cioè il Dio sovrano chiamato Altissimo. Dunque, niente paura, nessun spavento, nessuna angoscia, nessuno smarrimento, quasi che il diavolo potesse fare quello che vuole, ma solo fiducia che il tutto è sotto il controllo del sovrano Dio, Re dei Re, Signore dei Signori, Padrone dei Padroni. È vero che il diavolo è all'opera, ma è altresì vero che ha uno spazio delimitato dalla sovranità di Dio. Un esempio può far comprendere come le circostanze ritenute sfavorevoli o contrarie ai nostri piani siano comunque secondo la volontà di Dio. Un credente ecuadoriano aveva intenzione di compiere in viaggio e non aveva i mezzi finanziari e l'ha potuto effettuare solo quando ha trovato un biglietto d'aereo dal prezzo stracciato. Al ritorno ne ha approfittato per fare una deviazione che non aveva previsto per fare una visita a dei nipoti. All'aeroporto scopre che gli hanno scambiato il posto super modesto con un posto di lusso nel reparto di prima classe, senza nessun incremento di prezzo da pagare. In questo lussuoso reparto nota che vi è con lui una sola persona, una bellissima ragazza, che risultò in seguito essere Miss Ecuador 2004. Preso coraggio, testimonia di Cristo a questa ragazza, la quale in poco tempo pone fede in Cristo quale suo Salvatore e Signore. Dunque, le circostanze di questo credente erano state sfavorevoli all'inizio perché non aveva i soldi, e questo si poteva attribuire al diavolo. Inoltre, aveva improvvisamente a sua insaputa dovuto deviare il suo viaggio. E anche questo poteva essere l'opera del diavolo, dato che non poteva tornare a casa nel tempo stabilito. Anche il suo spostamento da una classe ad un'altra poteva essere l'opera di Satana, che in questo caso era favorevole, ma poteva anche succedere il contrario. Meno come il fatto che era stato costretto a trovarsi con una sola persona, mentre nella classe dove doveva andare poteva testimoniare a più persone. Non solo, il fatto buffo è che anche la ragazza aveva progettato il suo viaggio una settimana prima, ma l'aveva rimandato ancora di un'altra settimana. Eppure, tutti questi imprevisti, queste difficoltà, gli impedimenti, erano tutti progettati da un unico sovrano, perché avvenisse questo incontro nel posto opportuno e al momento opportuno. E così è stato di quel ragazzo che ha ricevuto la cassetta e poi se l'è dimenticata. Molto probabilmente meno, e ora possiamo dire certamente meno, se avesse guardato la cassetta qualche mese prima non avrebbe ricevuto il messaggio del Vangelo perché il suo cuore non era stato preparato dallo Spirito Santo. Un contrattempo, un impedimento possono anche essere l'opera del diavolo, ma la cosa difficile è sapere quando questa è l'opera del diavolo. Non basta che piova per dire che è il diavolo che fa questo, solo perché dobbiamo uscire di casa per evangelizzare, come non è necessariamente l'opera del diavolo se ci è una malattia, un tumore o una morte prematura. Già fin dalla nascita gli anni di ogni uomo sono stati prestabiliti. E una morte prematura non è sempre da attribuire al diavolo, dato che vi è la promessa che chi non rispetta i genitori può avere la vita abbreviata. Se una morte prematura può essere anche il risultato di una disubbidienza ai comandamenti di Cristo, attribuire al diavolo le colpe che sono nostre è molto comodo e disonesto. Una dimostrazione biblica che non sia solo il diavolo a vietare, proibire o impedire con circostanze sfavorevoli ciò che è giusto, la vediamo descritta nel libro degli Atti. In questo libro Luca racconta principalmente episodi della vita di Pietro e Paolo e durante il suo secondo viaggio missionario, Paolo e Silvano ebbero la seguente esperienza. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. Giunti ai confini della Misia, essi tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo permise loro. Così, attraversata la Misia, discesero a Troas. Durante la notte, apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo, macedone, che lo supplicava e diceva «Passa in Macedonia e soccorrici». Atti 16.59 E, fuor di dubbio che predicare la parola di Cristo rientri nella volontà di Dio, eppure ci fu un momento che lo Spirito Santo vietò di predicare l'Evangelo in una certa località. Se prendiamo sul serio ciò che ha scritto Luca, ci volle da parte sua del coraggio per scrivere che fu lo Spirito Santo a vietare di evangelizzare, ma evidentemente i primi cristiani avevano una conoscenza di Dio e del suo carattere che a noi sfugge. Prendiamo un altro esempio. E fuori di ogni discussione che la volontà di Dio è, che prediamo gli uni per gli altri, eppure al profeta Geremia, l'Eterno ordinò per 3 volte di non pregare per il popolo di Israele. Geremia 11 e 14, 11. È evidente che questi esempi non hanno lo scopo di scoraggiare la preghiera per il prossimo, né di concludere che non sia giusto evangelizzare. Ma stanno a dimostrare che se Dio può vietare ciò che è giusto, non è sempre automatico attribuire al diavolo una contrarietà. Vedere il diavolo ovunque, e soprattutto in quello che a noi sta a cuore, non è un atteggiamento che onora Cristo e il regno di Dio. L'apostolo Paolo ha avuto molte contrarietà, è stato in prigione per degli anni quando poteva nella libertà predicare l'Evangelo ovunque, eppure nelle sue lettere non ha mai attribuito i suoi impedimenti al diavolo. Il diavolo esiste ed è vivo e vegeto, ma il credente si interesserà relativamente all'opera di questo perché sa che Cristo lo ha vinto ed è più forte di lui. Anzi, per quanto il diavolo si dia da fare, il credente può dire trionfante con l'apostolo Paolo che ogni cosa coopera al bene per quelli che amano Dio. Perciò, con un Dio sovrano sul diavolo e nelle circostanze della vita, al credente che ama Cristo, Gesù non resta che vedere tutto positivo, occuparsi del regno di Dio e resistere al diavolo, Giacomo 4.7. Vi sono cose che a noi mortali saranno sempre nascoste, specialmente nel campo del soprannaturale, perciò conviene accettare i piani di Dio. Le cose occulte appartengono all'Eterno, il nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Deuteronomio 29.29. Così come quel giovane credente, i figli di Dio devono preoccuparsi di essere fedeli nel testimoniare, anziché giudicare ciò che non ci appartiene. Maggio 2006. Ellero,